effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza a non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E ciao a tutti, bentrovati e bentrovate ai nostri amici e alle nostre amiche ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Questo appunto è Radio Wombat all'1359 della modulazione di frequenza in onde medie. Questa è la trasmissione della stampa rassegnata che come ogni settimana va in onda in diretta il lunedì alle 15.30 oppure nelle sue repliche il mercoledì alle 23.59 per non dire mezzanotte perché può confondere e il giovedì mattina alle 8.30. Voi che ci ascoltate sapete più o meno che in questa trasmissione, in questo spazio che dura 55 minuti, un'oretta, prendiamo un po' in analisi quelli che sono i fatti che vengono commentati nelle cronache locali dei principali giornali dell'area metropolitana fiorentina, con particolare riferimento a due vicende nelle quali chi vi parla da questi microfoni è direttamente e personalmente impegnato e quindi per ovvie ragioni riesce ad esprimere un punto di vista che non è esclusivamente di opinionismo personale e che sono la vertenza popolare contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini o l'inceneritore di Firenze e la trasformazione dell'aeroporto di Peretola in aeroporto intercontinentale. Oltre a queste due, diciamo, vertenze, diciamo che poi tutto sommato costituiscono per certi aspetti delle macro aree all'interno delle quali riusciamo a sviluppare commenti, spesso anche fuori dalle cronache giornalistiche che non sempre coprono i fenomeni e gli avvenimenti legati a queste due vertenze, ci spostiamo e ci muoviamo anche rispetto ad altre notizie. Ed è proprio uscendo da queste due cose che vorrei portare alla vostra attenzione una notizia che andiamo a recuperare nel, diciamo, nel nostro piccolo archivio della memoria, perché non è di questi giorni, ma è una notizia che abbiamo tenuto da parte per ragioni di tempo e di organizzazione delle nostre cronache e della nostra trasmissione, ma insomma non possiamo ignorare. Una notizia ormai di un po' di tempo fa, perché stiamo parlando del 28 di settembre, quando dal Corriere Fiorentino, tra l'altro in un trafilettino anche abbastanza anonimo, infilato tra altre cronache di diciamo tra una notizia di un furto a Peretola e di un ladro di borse a San Jacopino, compaiono le bandiere del SAPPE, del sindacato di polizia penitenziaria, che a Sollicciano, di fronte a Sollicciano, protesta, mette in scena un presidio protesta per chiedere niente po' di meno che l'utilizzo e il permesso, insomma la dotazione del taser per gli agenti in carcere. Quindi, leggendo l'articoletto, Sollicciano, presidio anti-aggressioni, e questo è il titoletto del Corriere. Poi c'è la foto di rito del SAP radunato per l'appunto davanti a Sollicciano con le proprie bandiere, le magliette, i cappellini e quant'altro per chiedere taser per gli agenti in carcere. Ora basta! È il grido degli agenti penitenziari di Sollicciano ieri in presidio davanti al carcere, che denunciano aggressioni con cadenza settimanale ai loro danni da parte dei detenuti. Per questo gli agenti hanno chiesto alle istituzioni di poter utilizzare la pistola elettrica in carcere. Questa è la notizia, brevissima come ho detto, notizia che però ai nostri occhi appare di una certa rilevanza. Proprio perché, insomma, da una parte da ricondurre a quella che è la sperimentazione nella città di Firenze e che tra l'altro tra le varie città in cui la pistola elettrica ha cominciato ad essere sperimentata, Firenze purtroppo ha anche in questo caso un suo primato, che è quello del primo utilizzo della pistola elettrica nella zona della fortezza d'Abbasso, dei giardini della fortezza, in cui la notte del 12 settembre, se non sbaglio, o tra l'11 e il 12 o tra il 12 e il 13, in un intervento di polizia stradale, la pistola elettrica è stata usata per la prima volta su una persona, tra l'altro di età abbastanza giovane, di origine turca, che in una situazione psicologica evidentemente abbastanza alterata, si è poi scoperto che aveva avuto già un ricovero coatto in psichiatria, è stata usata insomma la pistola elettrica. Quindi chiaramente questa notizia che abbiamo insomma in qualche modo tenuto da parte e letto oggi si va a ricollegare a questo utilizzo e a questa vera e propria militarizzazione dell'ordine pubblico che sta avvenendo in tutta Italia e a Firenze ha avuto il suo primato. L'abbiamo poi un po', diciamo, andata ad indagare e in questo credo sia da rilevare e mi sembra interessante la ricorrenza di un dispositivo abbastanza classico ormai delle comunicazioni di massa, non solo della comunicazione, diciamo, 2.0, cioè quella che si è sviluppata con l'utilizzo dei social media nell'ultima decina di anni, ma un meccanismo e un dispositivo, come dicevo, sicuramente che si è andato ad affermare quantomeno dalla seconda metà del Novecento, legato chiaramente alle esigenze di consenso che le democrazie, le liberal democrazie, hanno e portano con sé. Quindi sto parlando del dispositivo della strumentalizzazione dell'episodio singolo e specialmente dell'episodio di violenza. Anche in questo caso, come vi ho già messo in evidenza, dandogli un po' di enfasi con la voce, il Corriere diceva presidio anti-aggressioni, quindi quello che in realtà è un presidio o una protesta, comunque un sit-in, ormai i sit-in come sapete li fanno tutti, li fa Confindustria all'aeroporto di Firenze perché lo vuole Intercontinentale, li fa Nardella con tutto l'assessorame del Partito Democratico di fronte alla stazione Foster perché vuole la ripresa dei lavori della TAV, della stazione Alta Velocità Fiorentina, li fa anche il SAP davanti a Sollicciano per chiedere il taser. Quindi ormai insomma la dinamica del sit-in del presidio per certi aspetti è anche svuotata di vero e proprio significato, è semplicemente un momento per mediatizzare una notizia o una richiesta, e questo è proprio il caso perché non ci sono aggressioni particolari, perché si scopre più avanti che un agente insomma si è slogato un polso, e non credo che la slogatura di un polso meriti un presidio, perché se ogni incidente sul lavoro nel campo dell'edilizia o nella metallurgia o fosse anche un incidente legato ai trasporti per chi si muove molto sulle strade e nel traffico per ragioni legate al proprio lavoro, se ogni volta ci dovesse essere un presidio e un sit-in non si finirebbe più. Quindi chiaramente qui è proprio la classica strumentalizzazione dell'episodio di violenza, perché si parla di un presidio anti-aggressioni, e quindi nel discorso che viene sviluppato da questo sindacato di polizia che ricorre spesso nelle cronache locali e nazionali, il SAP per l'appunto, il discorso gira proprio intorno a questo, cioè al rischio a rischio vita e aggressioni che corrono i propri aderenti, che sono agenti di polizia penitenziaria all'interno delle carceri, e la richiesta del taser sarebbe insomma una risposta a questa dinamica di aggressioni che viene vissuta dal loro personale. Sono andato un po' a cercare e in un sito che è quello di Firenze Today c'è una sorta di intervista ad uno dei responsabili del SAP fiorentino che parla appunto della situazione di Sollicciano e che vorrei insieme a voi guardare più o meno per commentare un po', per rendersi conto di quella che è la situazione tragica, veramente tragica, vissuta dalle carceri italiane, compreso il carcere di Sollicciano, la tragicommedia di doverla sentir commentare e denunciare dagli agenti di polizia penitenziaria, e il fatto che poi la fotografia veramente triste e tragica della realtà carceraria italiana venga poi utilizzata per giustificare la richiesta del taser e quindi di fatto non per risolvere i problemi strutturali del carcere, che di fatto è una discarica sociale e così insomma la possiamo chiamare senza offesa nei confronti di nessuno, ma appunto venga quella che vorrebbe essere la cura, in realtà non è che un problema che aggraverà la situazione. Sollicciano scoppia la protesta della polizia penitenziaria, abbandonati. Dopo l'ennesima rissa, sit-in del SAP, più uomini e taser anche per noi. L'uomo che ha ucciso il figlio in Mugello tenta di nuovo il suicidio. E già nel sottotitolo credo che oggettivamente ognuno, se si sofferma, capisce che il taser con il tentato suicidio dell'uomo che ha ucciso il figlio in Mugello, che tenta il suicidio, non credo che ci entri assolutamente niente, nel senso che se una persona o altre persone rinchiuse in carcere tentano il suicidio per evidenti ragioni di disperazione personale, cosa c'entra la richiesta del taser? Non so, forse per impedire il suicidio vorrebbero il taser, quindi uno che si vuole suicidare, arriva un agente di polizia penitenziaria e grazie alla nuova dotazione del taser gli dà due scariche di elettricità, così invece che il suicidio lo ammazza per scariche elettriche e arrivederci e grazie. Quindi evidentemente già nel sottotitolo insomma siamo fuori da ogni connessione logica, mettiamola così. L'articolo prosegue, la polizia penitenziaria denuncia una situazione sempre più esplosiva in Grassetto nel carcere di Sollicciano. Dopo l'ultima rissa tra detenuti avvenuta ieri e che è costata una contusione al polso ad un agente intervenuto. Quindi ecco, la situazione è esplosiva in Grassetto perché è costata una contusione al polso di un agente intervenuto. Ora attenzione, io non sono qui, non voglio in nessun modo minimizzare la drammaticità delle condizioni che si possono ciò che può avvenire all'interno del carcere, perché sicuramente sono luoghi in cui la detenzione, le ragioni per le quali ci si finisce, che spesso sono risibili, l'utilizzo che se ne fa proprio come luogo di contenimento anche spesso preventivo di delle cosiddette masse impoverite e che quindi diventano o vengono viste dalle classi dirigenti come pericolose, insomma sicuramente la situazione non è delle migliori sia per gli operatori carcerari ma a maggior ragione per i detenuti. Però è altrettanto vero, e lo capisce anche mio figlio che ha 3 anni, che lo chiamo spesso in causa, che la contusione a un polso non è un episodio che si possa citare come esplosivo. Si prosegue con l'articolo, le aggressioni da parte dei detenuti sono all'ordine del giorno e restano impunite, come in tutte le carceri d'Italia. Lavoriamo sotto organico, abbandonati, denunciano Donato Capece, segretario nazionale del SAP, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, e Pasquale Salemme, segretario regionale. Ora, anche qui è evidente che le aggressioni restino impunite, è tutto da assolutamente da vedere, proprio perché sappiamo che esistono meccanismi di premialità e punizione legate alla condotta carceraria, quindi questo mi sembra un discorso assolutamente falso, senza mezze misure possiamo definire falso, a meno che con l'idea dell'impunità non si voglia piano piano e in modo abbastanza subdolo introdurre l'idea che all'aggressione si dovrebbe rispondere con una maggiore superiore violenza nell'immediato, quindi si mette in discussione il sistema delle punizioni e dei premi legati che allungano o diminuiscono la permanenza nel carcere, ma si vorrebbe insinuare e introdurre l'idea che quando e laddove si verifica un'aggressione gli agenti di polizia carceraria dovrebbero e potrebbero punirla immediatamente sul posto aumentando il carico di botte, che però in questo caso, attenzione, non sarebbero botte, ma proprio perché si richiede il taser sarebbe lo strumento utile e adatto alla punizione sul posto. Quindi ecco ancora una volta che il taser non si chiede tanto per limitare o ridurre i rischi di una situazione di relativa esplosività, ma come strumento di punizione in questo caso a tutti i livelli, corporale punizione corporale, che, come abbiamo visto e come sappiamo avvenire all'esterno delle carceri, quindi nell'utilizzo della pistola elettrica come strumento di ordine pubblico, è particolarmente pericoloso proprio perché non va a sostituire l'uso della pistola, cioè dell'arma da fuoco, ma eventualmente il taser rischia di andare a sostituire l'uso del manganello. Quindi non è, anche se viene presentato e raccontato, narrato come una arma a letalità attenuata e quindi migliore delle pistole, in realtà non va a sostituire la pistola, ma va a sostituire l'utilizzo del manganello. E chiaramente questo ragionamento che abbiamo fatto leggendo questo piccolo paragrafo, che comunque sono le dichiarazioni dei responsabili del SAP, lo fa chiaramente capire. Quindi il taser come strumento di punizione sul posto, anche nelle carceri, come avviene fuori. Continua l'articolo: tra i problemi che ricadono sia sulle condizioni di vita dei detenuti che su quelle di lavoro degli agenti c'è il sovraffollamento, pur in calo. Oggi nel carcere fiorentino ci sono circa 830 reclusi per una capienza regolare di circa 490 posti. Evidentemente, come ho detto, l'articolo denuncia e fa una fotografia amara e triste di ciò che sono le carceri, compresa quella fiorentina, ma sicuramente il sovraffollamento, che è una realtà che Sollicciano vive ormai da decenni, non ha niente a che vedere con il taser. Ditemi in che modo l'utilizzo e l'introduzione del taser all'interno di Sollicciano può contribuire in qualche forma o in qualche modo alla diminuzione del sovraffollamento. Forse uccidendo i detenuti? Insomma, non mettiamolo neanche per scherzo. Poi c'è il problema: dopo la chiusura degli OPG e la mancanza di posti sufficienti nelle REMS, cioè le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, che sono destinate a criminali con problemi psichici, le carceri sono diventate un contenitore e la polizia penitenziaria deve gestire persone che non dovrebbero stare qui e che spesso aggrediscono altri detenuti o agenti, prosegue. È chiaro che anche qui, rispetto a questo, cosa ha a che vedere l'introduzione del taser? Tra i detenuti psichiatrici è recluso a Sollicciano anche Niccolò Patriarchi, 34enne, che ha ucciso il figlio di un anno a Scarperia 10 giorni fa. Ha già tentato il suicidio almeno 2 volte e deve essere guardato a vista dagli agenti. E l'abbiamo già detto: dategli il taser, così cosa succede? Che il signor Patriarchi non ha più voglia di uccidersi perché ha realizzato probabilmente di aver ucciso suo figlio? Bah, diteci cosa c'entra il taser. Sono diversi quelli che avrebbero bisogno di assistenza psichiatrica, ma un tale servizio, come conferma la polizia penitenziaria, all'interno del carcere è quasi inesistente. Ci sono detenuti che si suicidano, ma tanti, ricordiamolo, sono salvati dalla stessa polizia penitenziaria. Gli agenti protestano soprattutto per le condizioni di lavoro. Non abbiamo strumenti per difenderci, chiediamo un aumento di personale. In Italia mancano 4.000 agenti penitenziari e a Sollicciano oltre 100. Vogliamo in dotazione il taser, la pistola ad impulsi elettrici recentemente introdotta in Italia in via sperimentale ai carabinieri di alcune città, tra cui Firenze, chiedono sempre Capece e Salemme. Una possibilità alla quale ha già aperto il ministro degli interni Salvini, contro la quale invece si è schierata la Camera Penale di Firenze, giudicando il taser un'arma pericolosissima. La richiesta di Capece va direttamente al ministro della giustizia, guidato da Alfonso Bonafede dei 5 Stelle, affinché intervenga per migliorare la sicurezza degli agenti e stanziare risorse per le ristrutturazioni. Sollicciano a livello strutturale non è sicura, andrebbe chiuso. Sono necessari ammodernamenti e più tecnologia. Qui siamo proprio, si va da cazzo a palazzo, come si suol dire. Da una parte siamo sotto organico e vogliamo più personale perché mancano 100 agenti, dall'altra c'è il sovraffollamento, dall'altra ci vogliono investimenti per la sicurezza, dall'altra andrebbe chiuso, nello stesso tempo vogliamo il taser. Quindi è un grandissimo buglione in cui tutta la drammaticità di cui si carica la situazione carceraria italiana, che certo è drammatica, tutto questo serve solo ed esclusivamente a giustificare un ennesimo strumento repressivo di punizione corporale che si chiama taser, pistola elettrica. Quindi questa è la situazione, questa era la notizia. Speriamo di aver fatto cosa gradita ai nostri ascoltatori, di mettere in evidenza e in risalto quello che è avvenuto sotto il cancello di Sollicciano, che sicuramente non è una zona trafficata e dove sicuramente Nardella non ha il problema di far alzare i turisti dai muretti perché mangiano panini in un numero tale da non far passare la gente. Sollicciano è molto dislocato, nessuno vede ciò che avviene, probabilmente la notizia di cronaca, che tra l'altro come ho detto era piccola anche all'interno del Corriere Fiorentino del 28 settembre, è passata inosservata. Vi mando un pezzo musicale per rilassarvi, anche se, diciamolo subito, siccome questa settimana attraverserà anche la ricorrenza, se così possiamo definirla, della famosa vittoria della prima guerra mondiale, che noi la ricordiamo ovviamente come per quello che è stato, cioè nient'altro che un massacro sociale delle classi subalterne mandate a combattere e a uccidersi, a scannarsi l'una contro l'altra per gli appetiti delle borghesie imperialiste e dei nascenti, dei neonati stati nazionali, semplicemente per gli appetiti di conquista e per ragioni di tipo geopolitico, la ricordiamo per quello che è e la ricordiamo e la vogliamo ricordare con alcune canzoni, canti popolari, canti di lotta che mantengono un po' la memoria di quella che è stata la resistenza, l'opposizione di classe alla guerra mondiale, dell'allora movimento socialista, prima ancora del movimento comunista, del movimento anarchico, degli ambienti, dell'anarcosindacalismo, che si opposero fortemente a questa guerra con tutti i mezzi e con tutte le forme a loro disposizione, prima tra tutte la renitenza e la sottrazione dalla leva militare. Quindi le canzoni di questa puntata saranno un po' dedicate a questo e sono prese da un sito che ho già avuto occasione di citare, che è ildeposito.org, un archivio digitale davvero impressionante e apprezzabile di materiali di canti di lotta più o meno recenti. Quindi, ricordando la guerra mondiale, mandiamo un pezzo musicale. Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità, per conquistare un palmo di terra quanti fratelli son morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Trincea di raggi, maledizioni, quanti compagni son morti lassù. Finirà dunque sta flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano Gorizia pigliar. Da Montenero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdò, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Ed eccoci di nuovo in voce, voi siete su Radio Wombat all'1359 in onde medie, questa è la stampa rassegnata. Notizia dal Corriere Fiorentino del 31 di ottobre, il giorno dopo, stato d'emergenza, Confagricoltura, 5 milioni di danni. Un articoletto che andrò a leggere in alcune parti salienti su quello che è successo tra il fine settimana e poi l'inizio della settimana, dell'ultima settimana di ottobre, che ha visto delle fortissime precipitazioni, uno stato di allerta meteo, non solo per la Toscana, che è stata, diciamo, investita da fortissime raffiche di vento e bombe d'acqua, soprattutto nella zona costiera ovviamente del nostro mare Tirreno, quindi Grosseto, quindi Livorno, meno la parte della Toscana del Nord e insieme poi a buona parte d'Italia, perché abbiamo visto danni sia al nord che al sud Italia. Quindi, visti i danni e le richieste per il riconoscimento di calamità naturale arrivate dalle varie amministrazioni, il governatore Enrico Rossi ha dichiarato lo stato d'emergenza regionale, un passaggio che prevederà nei prossimi giorni l'individuazione dei comuni colpiti dal maltempo e le varie azioni da mettere in campo. E alla luce dei report della Protezione Civile regionale e delle associazioni di categoria, danni e disagi con cui fare i conti non mancano. Da un confronto con i nostri associati al momento, abbiamo già superato i 5 milioni di danni diretti, spiega Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana. Col diretti prevede un calo di raccolto delle olive rispetto alle previsioni. Questo è un po', diciamo, il succo dell'articolo, che calcola insomma intorno ai 5 milioni di danni, e che sui quali la regione Toscana, diciamo giustamente, probabilmente in modo anche del tutto fisiologico e inevitabile, dichiara lo stato di emergenza regionale. Certo, c'è ovviamente grandissimo dubbio e le fortissime preoccupazioni e domande sono rispetto a da dove verranno tirati fuori i soldi dalle casse pubbliche per risarcire, per sostenere le aziende, gli agricoltori, tutte quelle situazioni che in una situazione come quella legata al maltempo e ad eventi climatici più o meno imprevedibili avranno bisogno di essere insomma sostenute e risarcite. Ce lo domandiamo perché sentiamo continuamente dire che le casse pubbliche, che il debito pubblico è molto forte, che le casse pubbliche sono state depredate in questi anni. Sappiamo quasi con assoluta certezza che per esempio le previsioni, le dichiarazioni rispetto all'istituzione del reddito di cittadinanza da parte del Movimento 5 Stelle resteranno quasi con assoluta certezza quasi del tutto irrealizzate, proprio perché mancano i fondi per realizzare un certo tipo di politiche redistributive, siano esse il reddito di cittadinanza, ma con moltissima probabilità anche se fossero il reddito di inclusione che aveva proposto il Partito Democratico, tenendo poi ovviamente conto che il reddito di cittadinanza, per come si è andato configurando nella stesura insomma delle proposte definitive, assomiglia in modo quasi preoccupante e un po' burlesco al reddito di inclusione proposto invece dal Partito Democratico. Quindi le preoccupazioni sono molto forti anche perché ci permettiamo, senza essere dei particolari esperti, ma diciamo svolgendo un ruolo di come potremmo dire di diffusione, di divulgazione, di fare nostre le dichiarazioni, gli studi, le analisi, le previsioni che molti osservatori che partono dalla presa di coscienza di una crisi ecologica ormai avviata sul binario dell'irreversibilità fanno proprio, e che ci dicono che quello a cui stiamo assistendo non è che l'inizio. Un inizio che non avrà una soluzione di continuità a breve termine, perché anche se spengessimo improvvisamente, immaginando di avere un fantascientifico bottone, tutte le emissioni di CO2 e di altri inquinanti nell'atmosfera, ma chiaramente le emissioni clima alteranti, così vengono definite, sono quelle che più preoccupano, proprio perché fenomeni di instabilità climatica a cui stiamo assistendo e di cui le perturbazioni che hanno fatto i recenti 5 milioni di danni in agricoltura facevano parte, sono destinate a ripetersi e ad aumentare sia in intensità che in frequenza. E questo, appunto, anche se potessimo, premere quel fantascientifico bottone di cui prima dicevamo e smettere di immettere nell'aria le grandissime quantità di CO2 che sono responsabili principali del surriscaldamento del pianeta, il clima non cambierebbe, non ritornerebbe a quello che era 20 o 30 almeno 20 o 30 anni fa, immediatamente. Ci sono dei tempi di adeguamento molto lunghi e quindi le nostre società, le nostre aree metropolitane, ma anche e soprattutto le nostre aree rurali, e quindi dove ancora sopravvive la campagna, si devono e dovranno attrezzarsi per sostenere e in qualche modo fare fronte a fenomeni climatici di questo genere, che anche nella percezione sociale più comune e più superficiale sappiamo che hanno piano piano cominciato ad incidere, a scavare un solco profondo. Chiaramente questi le perturbazioni di questi giorni le abbiamo viste manifestarsi anche in città, e non mancano anche per quanto riguarda il nostro, diciamo tra virgolette, la nostra mission di guardare i giornali. Non hanno mancato le cronache di stigmatizzare gli alberi caduti, i rami che si sono spezzati, le tegole che sono partite dall'una o dall'altra parte, tutti fenomeni che sono accaduti anche dentro Firenze. Insomma, la situazione, ripeto, è grave, e grave anche se per certi aspetti aprirebbe a società che hanno la capacità di rispondere alle nuove sollecitazioni della vita collettiva anche delle possibilità, perché spesso si parla del lavoro, di problemi occupazionali, e per esempio la messa in sicurezza dei territori, che non è da intendersi solo come messa in sicurezza in termini di riparazione dopo che i danni sono avvenuti, ma andrebbe intesa anche come messa in sicurezza preventiva per evitare che certi danni possano avere un impatto, l'impatto forte che purtroppo hanno avuto e necessariamente avranno, vista l'inadeguatezza con cui le nostre società sono arrivate fino a qui, avrebbero anche la possibilità di uno sviluppo da un punto di vista occupazionale. Chiaramente uno sviluppo da un punto di vista occupazionale e delle potenzialità che però prevederebbero che il rapporto tra spesa sociale e profitto privato fosse sicuramente, se non completamente ribaltato, quantomeno fortemente rivisto. Invece noi continuiamo a vedere politiche, scelte politiche con le quali si favoriscono le grandi aziende, si favorisce la creazione di condizioni favorevoli al profitto e all'utile privato, penalizzando la spesa sociale, i servizi, i tagli e quindi anche la messa in sicurezza del territorio, e quindi anche politiche di prevenzione rispetto a quelle che possiamo definire calamità naturali, anche se quando diciamo naturali dobbiamo sempre avere la consapevolezza che queste calamità naturali sono frutto di quella che ormai è stata definita una vera e propria fase geologica della vita del pianeta, che è l'antropocene, quindi la responsabilità dell'uomo che insomma, in qualche modo agisce e agisce così profondamente sulle relazioni ecologiche da alterarle fino al punto a cui siamo arrivati. Lo dico, ho fatto questa riflessione un po' anche sul lavoro e sulle possibilità occupazionali che ci sarebbero nella messa in sicurezza dei territori, perché evidentemente tutto questo forse se ne è accorta la gente, se ne accorgono settori sempre più vasti del mondo del lavoro, settori sempre più ampi della società, ma la politica continua per una missione assolutamente genetica di fare da amministratrice delegata delle grandi imprese e del grande capitale a favorirlo. E infatti in questi giorni, nel mentre potevamo sviluppare riflessioni e ragionamenti intorno a quello che è successo sul clima, si continua a girare e a far girare il criceto nella ruota delle grandi opere, tant'è che appunto per parlare di occupazione, e non credo in questo momento che sia un aspetto secondario quello di rimarcare e di portare l'attenzione ancora una volta su questo, si fa leva proprio su questo aspetto dell'occupazione per rilanciare una grande opera come per esempio l'alta velocità, proprio perché il presidio, il sit-in che Giani, Nardella, Bettarini, tutto l'assessorame ha fatto di fronte alla stazione Foster per rilanciare l'alta velocità, aveva come primo punto in quel demenziale striscione che hanno portato lì sotto il per l'occupazione. Ecco che si va o si vorrebbe andare a far ripartire una mostruosità infrastrutturale che è già costata 760 milioni di euro pubblici, si vorrebbe far ripartire per portare questa spesa chissà a quanti miliardi di euro pubblici. Tutto questo con la giustificazione primaria dello sviluppo dell'occupazione, ragionamento e argomento che sta fortemente anche dietro alla spinta che mai si arresta e mai si ferma rispetto alla costruzione dell'aeroporto intercontinentale. Sono ovviamente barzellette e parole magiche e parole di una formula magica che non funziona e che le classi subalterne hanno compreso nella sua inutilità, anzi nella sua assoluta dannosità rispetto ai propri interessi e alle proprie aspirazioni, ma che nelle cronache e nella propaganda e nella comunicazione mainstream continua ancora a dominare, e domina talmente tanto che lo stesso Corriere, da cui abbiamo preso queste notizie, del 31 di ottobre, mette i danni in agricoltura in una spalletta accanto alla pubblicità dell'Esselunga quasi invisibile, e invece dedica ben due paginoni centrali, uno all'alta velocità, la sfida di Nardella, e il governatore Rossi che batte i pugni, è una maledizione, non ci stiamo. E così, senza allungarla o allargarla più di così, vi ho raccontato anche quello che diciamo in qualche modo è stato questo sit-in che chiaramente ha fatto parlare di sé, perché non poteva non essere così. Alla paginone si affianca anche un disegnino che chiaramente cattura fortemente l'attenzione del lettore, e questo sempre per stare a parlare un po' dei meccanismi dell'informazione, che diciamo simula un gioco dell'oca tra il fumettistico e l'ironico, che dagli anni 70 arriva fino al 2018 con le varie proposte, riproposte, controproposte e revisioni del progetto di quello che è la vicenda della stazione Foster e del cantiere alta velocità tra via Circondaria e viale Corsica, che come ho già ricordato è costato alla collettività, e quando si dice collettività si intende soprattutto alle classi subalterne, perché lo pagano con l'allungamento dei tempi pensionistici, lo abbiamo pagato in questi anni con la sottrazione e la quasi totale scomparsa dei servizi alla persona e assistenziali, lo paghiamo con i tagli, o meglio la privatizzazione della sanità, lo paghiamo con le cartolarizzazioni e la vendita degli immobili, la quasi totale mancanza di manutenzione nel verde e la sparizione dello spazio pubblico, la paghiamo in tutti questi termini, eppure la stazione neanche c'è. Quindi questi soldi dove e come sono andati lo sappiamo perfettamente tutti. Facciamo un'altra pausa musicale, sempre contro la guerra mondiale, e risentiamoci tra qualche minuto. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi, che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punire. voi chiamate il campo d'onore, questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu. Ancora ai microfoni, questa era Gorizia, tu sei maledetta, una canzone famosissima di ricordo della Prima Guerra Mondiale e soprattutto di quello che accadde nella città di Gorizia, indimenticabile città che forse ha pagato più di ogni altra il prezzo di quel folle massacro tra classi subalterne di diversi paesi, mandate l'una contro l'altra a colpi di baionetta dalle rispettive borghesie nazionali, avide e avide e avide. E non meno avide sono le borghesie odierne, siamo proprio qui davanti, sempre dal Corriere Fiorentino, che in questa settimana ci ha davvero ispirato, che commenta un'altra delle nardellate, insomma, di questi mesi, di questi anni. Siamo nel campo della sicurezza, della gestione dell'ordine pubblico, via ai vigili del weekend, con lo sponsor tra parentesi, lavoreranno per 6 mesi in centro. Che succede? Arrivano i vigili sponsorizzati per il weekend. Sono 16 agenti assunti a tempo determinato per 6 mesi che copriranno alcune vie del turismo, soprattutto da giovedì a domenica, lunedì libero. Una presenza cofinanziata dalla Fondazione CR, che sta per Cassa di Risparmio di Firenze, con 125.000 euro. È però già polemica, ci dice l'articolo del giornale, con i sindacati che attaccano. Per 6 mesi questi lavoratori non avranno mai una domenica libera, a differenza di tutti gli altri agenti. Continuo un po' con l'articolo, ve lo leggo, che sostanzialmente poi parla da solo e dice quasi tutto quello che c'è da dire. Siamo i primi ad applicare la legge che consente di avere agenti di polizia municipale a tempo determinato grazie ad una sponsorizzazione, questo dice chiaramente Nardella. Metà donne e metà uomini, ci mancherebbe altro, una conoscenza adeguata della lingua inglese con esperienza alle spalle. Questa è la pattuglia dei vigili che sono stati scelti per il controllo del territorio e dell'assistenza a cittadini, commercianti e visitatori, prevalentemente nell'area della stazione e dei quartieri del centro. Copriranno principalmente le zone del centro, da via Tornabuoni al Duomo alla stazione, dove più presenti sono i flussi turistici. Insomma, ecco, come abbiamo detto già in introduzione della notizia, che praticamente Cassa di Risparmio di Firenze mette a disposizione questi 125.000 euro per andare incontro ad una delle emergenze, possiamo praticamente definirla così, che hanno visto protagonista le manovre, le politiche, soprattutto anche con un impegno veramente di tipo personale del sindaco Nardella, che a partire da tutta la vicenda di Via De' Neri, di Borgunto, così come era stata definita dai media mainstream della cronaca locale, portandola un po' alla ribalta anche nazionale per l'ordinanza relativa ai panini, che è stata, insieme ad altri tipi di commenti magari più competenti anche in materia di diritto di legittimità di un intervento come quello dell'ordinanza sui panini, è stato anche immortalato dalla Madonna del Panino. di cui abbiamo parlato da questi microfoni, non solo nella nostra trasmissione che ha seguito un po' l'andamento giornalistico della vicenda, ma anche attraverso la trasmissione di Fuoco alle Polveri, che da tempo si occupa, diciamo, affiancando ed allargando ed estendendo per critica, per competenza, per voci che la compongono, alcune delle tematiche che affrontiamo anche in questa trasmissione, si è occupata anche di questo aspetto e delle politiche di ordine pubblico all'interno della Cerchia delle Mura e del Centro Storico Fiorentino. Poi comincia, e l'articolo prosegue, con tutta una serie di commenti che mettono veramente in modo fastidioso in evidenza l'aspetto, diciamo, lavoristico di questa manovra. Dice il sindaco, prosegue dicendo che sono convinto che questo progetto sarà apprezzato dai nostri cittadini, anche perché è un'opportunità di lavoro per i giovani. Mi fa piacere pensare che in questa collaborazione tra pubblico e privato diamo opportunità a ragazzi e ragazze che hanno già titoli e preparazione per questo tipo di attività. Prosegue poi il signor Gori, che della fondazione: la presenza di forze dell'ordine sul territorio fa da deterrente e aiuto al cittadino a vivere meglio. Con questa operazione aiutiamo inoltre le giovani generazioni a ribordare un'altra volta ad avere un lavoro e una prospettiva per il futuro. Ricordiamoci che abbiamo già introdotto il fatto che il contratto è a tempo determinato, che, come lamentavano già alcuni interventi sindacali, si lavorerà soprattutto nei fine settimana, ma insomma questa è la prospettiva per il futuro. E appunto, sì, niente, in sostanza poi l'articolo si chiude proprio con la, diciamo, querelle che viene aperta dai sindacalisti. In questo caso la parola viene data a un giornalista, a un sindacalista della UIL e a uno della CGIL, che mettono proprio in evidenza questo aspetto del lavoro domenicale. È chiaro che rispetto a tutto quello che abbiamo già detto, sorge assolutamente spontanea e evidente una domanda, un'interrogazione sulla, diciamo, sulla legittimità di questa operazione, perché come l'assunzione diretta da parte degli sponsor ha permesso e permetterà, per esempio, come indicano già gli interventi dei sindacalisti, l'aggiramento delle norme, della regolamentazione, dell'organizzazione dei turni e del lavoro, mettendo a lavorare questi ragazzi neoassunti proprio nei fine settimana, ci è lecito e ci viene spontaneo domandarsi quanto e fino a che punto questi vigili potranno in fin dei conti definirsi vigili, o piuttosto e più semplicemente non saranno un'altra cosa, cioè un altro tipo di operatori della sicurezza e dell'ordine pubblico, che opereranno in base ad altre logiche e rispondendo di fatto ai dettami, ai desideri e alle indicazioni di un altro committente, che non è di fatto più il pubblico e il Comune di Firenze in questo caso, perché si parla di vigili, ma è di fatto la Cassa del Risparmio di Firenze che paga questi vigili. Diciamo, un'altra cosa da mettere in evidenza, mi sembra importante e utile dirla, è che questa forma, insomma, di collaborazione tra pubblico e privato, che se no sembra a volte che tutto sia una grande novità e tutto venga inventato dall'onnisciente e incredibilmente acuto cervello del sindaco Nardella, ce lo ricordano appunto i sindacalisti, che già in passato era possibile per i privati sponsorizzare la presenza dei vigili, ma utilizzando personale già presente in organico. Quindi evidentemente era possibile in qualche modo fare delle, ora io non so esattamente come, in che forma, ma evidentemente si poteva fare delle donazioni, dare dei crediti, dare dei soldi, quindi questo era possibile sia da parte di grossi soggetti, come ovviamente sarebbe la Fondazione Cassa di Risparmio, ma forse anche da parte di altri cittadini o quant'altro. Questo con l'idea, con un'idea ovviamente discutibile e opinabile, ma insomma certamente meglio che non quella della formazione di un piccolo esercito privato, di permettere anche ai cittadini di contribuire e estendere eventualmente con donazioni volontarie quello che era il sistema dei controlli e della vigilanza pubblica. Invece qui insomma si sta un po' rovesciando le parti, perché questi sono a tempo determinato, è uno dei motivi per cui i sindacati attaccano le scelte ed hanno già previsto un'assemblea sindacale martedì. Insomma, qui poi abbandoniamo la tematica perché ci ha interessato fino a questo punto, fino alle domande che abbiamo fatto e diciamo insinuando il legittimo sospetto che si vada sempre più fortemente nella direzione della costruzione di piccole, ho detto esercito, insomma un po' esagerando la cosa, però insomma di piccoli gruppi e drappelli che rispondono poi a desideri e a volontà che non sono più quelle del comune, che chiaramente in un modo o nell'altro, attraverso il controllo della giunta, attraverso il lavoro del consiglio, insomma si muove quantomeno all'interno di quella che a scuola ci insegnano ancora a riconoscere come una forma di organizzazione sociale superiore a quelle passate. Intendo con questo la democrazia rappresentativa, che in qualche modo ci continuano a dire che è migliore o che offre maggiori opportunità di controllo pubblico e di appunto attraverso il gioco della rappresentanza democratica permette una maggiore partecipazione dei cittadini rispetto a quelle che erano le monarchie, i reami o altre forme diciamo dove il potere politico era concentrato in poche mani. Qui in qualche modo senza appunto voler eccedere nel dipanare la notizia, sì, però intravediamo in trasparenza certamente questo elemento di antidemocraticità, per cui chi conta si finanzia i propri vigili, li mette per la strada e gli fa eseguire alcuni compiti, chi non conta niente con molta probabilità ce lo immaginiamo dall'altra parte della strada, che invece di essere controllato, insomma che invece di poter controllare è proprio per l'appunto un controllato. Credo di dovervi dare l'ultimo saluto, vi lascio con l'ultimo pezzo musicale, a risentirci alla prossima settimana. Pugni chiusi, ciao! Questo è uno stornello pisano, un pochino forte devo dire, però a volte ci vuole, e i bambini si possono tappare le orecchie. No, è bene non se le tappino le orecchie, perché è uno stornello di volto incazzato, detto in francese, perché qui si parla, siamo nella prima guerra mondiale, ora voi vivete in un posto dove la memoria di questa guerra era forse anche molto più presente che dalle parti mie. La prima guerra mondiale non è stata una guerra sul territorio, è stata una guerra di confine, quindi qui c'era, ma in Toscana, per esempio, dove vivo io, si sentiva solo perché partivano i soldati, ma non è stata vissuta sul territorio. È stata una guerra tutta affatto inutile se uno conosce la storia, perché a scuola non si insegna, oppure io l'ho saputo all'università perché ho studiato queste cose. Insomma, l'impero Sbuggito aveva promesso Trento e Trieste all'Italia in cambio del non intervento. Ora, perché abbiamo fatto tanti morti gratis, questo me lo dovranno spiegare. Comunque, e soprattutto lo dovranno spiegare a questa signora qui che era di molto incazzata perché gli portavano via il marito. Andare a far barriera contro l'invasore, ma se va alla guerra e poi ci muore, rimango sola con quattro creature. E avevano ragione socialisti, memore tanti e un semo ancora lesti, ma San Corprete dice che dovresti a morite un ci vai, non ci hanno Cristi. E a te cador non manca gli accidenti, che a Caponetto hanno ammazzati tanti. Noi si patisce tutti questi pianti, e te nato d'un cane non li senti. E un bene in porta della tua vittoria, perché ci sputo sopra la bandiera, sputo sopra l'Italia tutta intera, e vado in cura il re con la sua gloria, e quando si farà rivoluzione ti voglio ammazza io da solitare, e a generali figli di buttare ti voglio sparare tutti col cannone. ma era un pochino irrazionale.